A bordo campo di Dario Ricci. Corrono i tapirulan, come sentite in sottofondo, e corrono gli atleti. Atleti particolari in una palestra, un luogo altrettanto particolare. Siamo infatti nella palestra dell'Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano. Qui Fondazione Laureus Italia, onlus che coniuga sport e progetti educativi con ragazzi in aree e situazioni di disagio sociale, insieme ai dirigenti dell'istituto ha dato vita a un progetto per realizzare un piccolo, grande sogno di alcuni dei giovani detenuti del Beccaria. Correre una maratona con a fianco un campione come Angelo Custode. E allora ecco l'idea, il progetto appunto, costituire quattro staffette di quattro ragazzi ciascuna, ragazzi selezionati tra i detenuti del Beccaria e i giovani che frequentano i corsi sportivi delle polisportive appunto coordinate da Laureus. Ragazzi atleti che prenderanno parte alla Milano City Marathon, la maratona milanese in programma l'11 aprile prossimo. E a fianco dei ragazzi correranno i grandi campioni dello sport italiano, da Andrea Zorzi, mito della pallavolo azzurra, ad Antonio Rossi, leggenda della canoa italiana. E le staffette dei campioni poi adotteranno quelle dei giovani atleti per un intero anno, non solo per la maratona, seguendone gli allenamenti ma anche e soprattutto il percorso formativo ed educativo. Silvana De Giovanni, direttore di Laureus Italia, ci spiega così l'iniziativa. Abbiamo deciso di far correre quattro staffette formate da minorenni, per cui correranno 16 ragazzi, due staffette del carcere Beccaria e due staffette di ragazzi che frequentano i nostri corsi alla polisportiva Laureus. Una di queste staffette sono contente formata da donne, da ragazze che seguono il corso di pallavolo con Andrea Zorzi. Perché proprio la maratona, perché proprio la staffetta, perché proprio la corsa? Perché questa domanda è cattiva, perché io sono una maratoneta, a me la corsa ha dato tanto, ha aiutato tanto nella vita, nei momenti difficili, questi ragazzi stanno superando un momento difficile e io sono sicurissima che questi ragazzi quando arriveranno al traguardo e consegneranno il testimone ai loro compagni, sono sicura che si sentiranno più forti, affronteranno la vita con più serenità. Mi sembra un segnale importante anche per una Milano spesso molto tiepida nei confronti dello sport, no? Un segnale che arriva dalla base e che lanciate un po' a tutta la città. Sì, abbiamo voluto coinvolgere tutti, abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi, abbiamo voluto coinvolgere le donne che sono ragazze, studentesse, mamme, per partecipare a questo evento meneghino e sono sicura che quest'anno avrà un grande successo. Ad allenare poi i giovani staffettisti, ognuno di loro, lo ricordiamo, dovrà correre per circa 10 dei 42 km e 195 metri della maratona, ci sarà un tecnico d'eccezione. Gabriele Rosa, presidente del Marathon Center di Brescia e grande maestro dell'atletica mondiale. A lui si deve ad esempio la crescita della grande tradizione keniana nella maratona, con campioni come Martin Lell e Paul Tergat. Stavolta però, spiega il professor Rosa, l'obiettivo è soprattutto partecipare. La preparazione non si discosta molto da quella che fanno anche i grandi atleti, cioè li testeremo e in modo modulare chiaramente, non per fare il record del mondo o vincere le Olimpiadi, li aiuteremo a poter correre la 10 km con tranquillità e con soddisfazione e soprattutto speriamo che questi due mesi servano a trasmettere a loro la percezione del proprio corpo come strumento di benessere e la loro volontà gestisca il proprio corpo in funzione dello sforzo che devono fare, in modo tale che capiscano che nella vita ci sono anche altri valori che possono essere insegnati attraverso un gesto semplice come la corsa. Corsa come sport di gruppo, no? Un concetto che lei ha ricordato, ha fatto il successo dei grandi talenti keniani e che paradossalmente, forse neanche troppo, è il valore fondante anche di questa esperienza. Sì, noi crediamo che condividendo la fatica, trasmettendogli le sensazioni e soprattutto partecipando a un progetto che poi dovrà finire col correre questi 10 km in una staffetta, crea tra di loro una specie di percezione dell'energia che stanno esprimendo e della capacità che hanno di compiere un gesto che comunque è comune a tutti. Ecco, le chiedo ancora, diciamo, tabelle d'allenamento, 10 chilometri, da cosa si parte? In base alle caratteristiche di ognuno cercheremo di fare un allenamento di gruppo che sarà leggermente differenziato, perché se troveremo dei ragazzi particolarmente predisposti potranno fare più facilmente degli allenamenti intensi, gli altri invece non hanno caratteristiche di predisposizione, dovremo lo stesso avviarli e magari con tempi e metodi leggermente più soft dovranno riuscire a dare il loro contributo, che non deve essere uguale per tutti, alla staffetta che è fatta da 4 gare fatte da 4 persone diverse. Fatica, impegno, lavoro di squadra, perseguire insieme un obiettivo, essere responsabili della propria prestazione ma anche di quella dell'intera squadra, percepire il senso del limite. Per i ragazzi del Beccaria una maratona è una corsa, sì, ma è anche e soprattutto tutto questo. Elvira Narducci, responsabile dell'area pedagogica dell'istituto, ci spiega così il valore dell'iniziativa per i giovani detenuti, non solo appunto sotto il profilo sportivo, ma soprattutto sotto quello pedagogico e rieducativo. Vale nella misura in cui riusciranno, dicevo, ad assumersi la responsabilità intanto per il gruppo, quindi di fare la fatica, di far fatica credendo che solo così riusciranno a superare anche le loro prime difficoltà che sicuramente ci saranno nel tenere l'allenamento proprio da un punto di vista di risposta fisica. E potrebbe essere, noi lo crediamo, quindi un'esperienza positiva, perché potranno fare i conti con dei propri limiti e vedere che con l'allenamento e la disciplina potranno andare oltre questi e accorgersi che se ciascuno di loro farà questo tipo di percorso e si unirà agli altri, l'esito e il plusvalore sarà ancora maggiore. Sport che ha un valore educativo fondamentale qui al Beccaria e che anzi si è progressivamente conquistato degli spazi importanti, vero? Sì, crediamo che possa assolutamente valorizzare e incanalare delle energie di cui sono portatori tutti gli adolescenti, quindi favorire che queste energie, canalizzandole, valorizzino anche la capacità che questi ragazzi hanno di raggiungere poi degli obiettivi e dei risultati e di favorire in loro l'idea che superare, appunto, come dicevo prima, il limite non vuol dire rompere questo muro, no, questa impossibilità, ma vuol dire fare i conti e rendersi conto che allenandosi si può andare oltre, ma non in maniera violenta, appunto, quindi facendo in modo che le nostre energie siano delle potenzialità e non sono non energie che deflagrano e distruggono e poi alla fine ci si fa anche male, come purtroppo i nostri ragazzi imparano dopo ad rendersene conto. Beh, allora non resta davvero che entrare nella sala palestra del Beccaria. L'equipe del Marathon Center di Brescia sta già svolgendo i test con i potenziali staffettisti per impostare le tabelle d'allenamento individuali e il lavoro atletico in vista dell'11 aprile. Si corre e si fatica sui tapirulan con i ragazzi incuriositi da questa nuova sfida da vincere insieme, in staffetta appunto. E proprio qui incontriamo a bordo campo il direttore del Beccaria, Sandro Marilotti, che prova già a guardare oltre l'11 aprile, a quello che questa esperienza potrà lasciare dentro le mura del Beccaria. Direttore, allora, credo sia una bella emozione vedere questi tapirulani in azione qui nella palestra del Beccaria per questa iniziativa così importante. Queste iniziative servono anche per dimostrare con fatti concreti che in carcere si fa anche altro e si cerca di far star bene i ragazzi, soprattutto quelli che meritano di cimentarsi in questi sport. Ecco, mentre i tapirulan continuano a correre, il rumore di sottofondo che ci accompagna, sport che ha uno spazio importante nel Beccaria, non solo la corsa adesso con questa iniziativa, ma anche il calcio, il rugby, addirittura il pugilato. Sì, il calcio per tradizione si è sempre fatto, non l'ho certo scoperto io. Io l'anno scorso invece sono riuscito a far entrare il rugby di Milano con ottimi allenatori, hanno motivato i ragazzi e sono riusciti addirittura a portare avanti delle attività impensabili sino a un anno fa, perché i ragazzi hanno risposto veramente, ma secondo me c'è stata la solidarietà tra allenatori e ragazzi, il clima che si è creato che ha favorito questa iniziativa. Ora proveremo anche con l'atletica leggera, che è molto importante, addirittura una maratona, sia pure parte di maratona, 10 km per ciascun ragazzo. Credo che correre sia importante per loro. Quale eredità si aspetta lasci questa maratona, questa staffetta?